Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Alexander ammiccò un poco, quasi con ironia, e disse: «Voi parlate con me, egregio collega, come fossimo due persone private che si intrattengono liberamente. Ciò vale invece soltanto per voi, che ora effettivamente siete una persona privata. Ma non lo sono io, e ciò che penso e dico non lo dico io, bensì il presidente dell'ordine, che è responsabile di ogni parola della sua autorità. Ciò che voi dite in questo luogo sarà senza conseguenze. Per quanto facciate sul serio, sarà sempre il discorso d'un privato che parla nel proprio interesse. Per me, invece, l'ufficio e la responsabilità continueranno. E ciò che oggi dico o faccio può avere conseguenze. Davanti a voi e ai vostri affari, io rappresento l'autorità. Non è indifferente se l'autorità vuole o no accettare, forse magari approvare, la vostra esposizione dei fatti. Voi dunque me li presentate come se fino a ieri, sia pure con ogni sorta di pensieri nel capo, foste stato un perfetto castalio, un magister irreprensibile. Aveste avuto bensì crisi di stanchezza nelle vostre mansioni, ma le aveste regolarmente combattute e vinte. Ammesso che io lo riconosca, come faccio a comprendere l'enormità che il magister, integro e irreprensibile, il quale fino a ieri aveva osservato ogni regola, diventa oggi improvvisamente un disertore? In verità, mi è più facile immedesimarmi in un magister che già fosse ammalato e intimamente mutato e, pur credendo di essere ancora un ottimo castalio, in realtà non lo fosse più da un pezzo. Mi chiedo anche perché teniate tanto a stabilire che fino all'ultimo eravate un magister fedele ai vostri doveri. Una volta fatto il passo, negata l'obbedienza e attuata la diserzione, poco possono importarvi si fatti rilievi. Knecht protestò. «Scusate, venerabile, perché non mi dovrebbero importare? Si tratta del mio nome, del ricordo che lascio dietro di me. Si tratta anche della possibilità di agire, là fuori, in favore della Castalia. Non sono qui per salvare qualcosa a mio vantaggio o ottenere che l'autorità approvi il mio passo. Lo speravo, ma mi rassegno a che i miei colleghi dubitino di me in avvenire e mi considerino un essere problematico. Non voglio però essere preso per traditore e per matto. Questo è un giudizio che non posso accettare. Ho fatto un passo che voi dovete disapprovare, ma l'ho fatto perché dovevo, perché ne ho l'incarico, perché è il mio destino nel quale credo e al quale mi sottopongo volentieri. Se voi non potete concedermi neanche questo, mi dichiaro sconfitto e riconosco di avervi parlato invano». Alexander rispose: «Si gira sempre intorno allo stesso punto. Io dovrei ammettere che, in date circostanze, la volontà d'un singolo ha il diritto di violare le leggi nelle quali ho fede e delle quali sono il rappresentante. Ora, non posso credere contemporaneamente nel nostro ordine e nel vostro privato diritto di infrangerlo. Vi prego di non interrompermi. Posso riconoscere che, secondo tutti gli indizi, siete convinto del vostro diritto e del significato del vostro grave passo e credete di essere chiamato a compierlo. Ma non aspettatevi che io approvi codesto passo. Per contro, avete ottenuto di farmi rinunciare alla mia idea iniziale di riconquistarvi e di farvi mutare avviso. Accetto le vostre dimissioni dall'ordine e trasmetto all'autorità la notizia della vostra volontaria rinuncia all'ufficio. Più di così non posso venirvi incontro, Josef Knecht». Il maestro del gioco delle perle fece un gesto rassegnato, poi disse pacatamente: «Vi ringrazio, signor presidente. Il cofanetto ve l'ho già consegnato. Ora rimetto nelle vostre mani anche le mie brevi note sulla situazione a Walzel, in particolare sui ripetenti e su quei pochi che, secondo me, sarebbero da prendere in considerazione come miei successori». Alexander, un po' pallido, rimase in silenzio. Per un attimo Parve che volesse alzare la mano e porgerla al partente. Sentì che gli occhi gli si inumidivano, ma chinò la testa. Rispose all'inchino di Knecht e lo lasciò uscire. Camminare dava piacere a Knecht, che da anni non aveva più viaggiato a piedi. Tutto era nuovo un'altra volta, misterioso e colmo di promessa. Il passato poteva dunque ritornare, e persino con numerose novità. Da gran tempo la giornata e il mondo non l'avevano guardato così belli, innocenti e puri. La gioia della libertà e dell'autodeterminazione lo permeava come una forte bevanda. Da quanto tempo non aveva più provato quella dolce e deliziosa illusione. Ripensandoci, rammentò il giorno in cui questo prezioso sentimento gli era stato bruscamente messo in ceppi. Era avvenuto in un colloquio col Magister Thomas, sotto il suo sguardo amichevole e ironico, e ricordava il disagio dell'ora in cui aveva perduto la libertà. Non era stato proprio un dolore cocente, ma piuttosto un'angoscia, un brivido sul collo, un monito fisico sopra il diaframma, un mutamento di temperatura, un nuovo ritmo del senso vitale. Oggi la sensazione così angosciosa, la costrizione quasi soffocante di quell'ora fatale, era compensata e guarita. Il giorno seguente, Knecht arrivò nella capitale e si presentò in casa dei signori. Plinio gli corse incontro per le scale e lo abbracciò commosso. «Ti aspettavamo con ansia e stavamo in pensiero. Caro amico, hai fatto un gran passo e speriamo che porti fortuna a tutti noi. Ma che ti abbiano lasciato partire, non l'avrei mai creduto!» «Come vedi, però, sono qui», disse Knecht ridendo. «Ne parleremo all'occasione. Adesso vorrei salutare anzitutto il mio allievo, e ben inteso anche tua moglie, e discutere con voi come si dovrà procedere. Non vedo l'ora di incominciare. Plinio chiamò una fantesca e le diede ordine di andare subito a chiamare il suo figliuolo. «Il signorino!» fece lei, evidentemente meravigliata, ma poi scappò via, mentre il padrone di casa accompagnava l'amico nella sua camera e si infervorava a riferirgli come avesse preparato e predisposto ogni cosa per il suo arrivo e per il soggiorno col giovane Tito. Disse che si era potuto fare tutto secondo i desideri di Knecht e anche la madre di Tito aveva compreso quei desideri e, dopo qualche resistenza, vi si era adattata. Possedevano una villetta in montagna chiamata Belpunt, situata in riva a un lago dove Knecht avrebbe dimorato nei primi tempi con l'alunno. Avrebbero avuto i servigi di una vecchia domestica già partita in quei giorni per sistemare ogni cosa. Parlarono ancora del più e del meno, poi udirono un rumore di passi. La porta si aprì e qualcuno entrò, ma non era né Tito né la domestica mandata a cercarlo. Era la moglie di De Signori. Knecht si alzò per salutare e notò che ella gli tendeva la mano sorridendo con una gentilezza piuttosto forzata, sicché si accorse come sotto quel sorriso cortese si celasse un'espressione di preoccupazione o dispetto. La signora aveva appena detto due parole di benvenuto allorché si rivolse al marito per liberarsi subito della notizia che la opprimeva. «È veramente penoso. Pensa, il ragazzo è scomparso e non si riesce a trovarlo.» «Via, sarà uscito», fece Plinio per tranquillarla. «Tornerà.» «Purtroppo non è probabile», obiettò la madre. «Devi sapere che è uscito fin da questa mattina. Me ne sono accorta stamane presto.» Knecht intervenne. «Permetta una domanda. Sapeva il giovane che dovevo arrivare e quali fossero le vostre intenzioni?» «Certo, signor Magister. Anzi, pareva persino contento di queste intenzioni, O almeno preferiva avere lei per maestro che essere mandato di nuovo in qualche scuola. Ebbene, fece Knecht. Allora tutto s'accomoda. Suo figlio, signora, ha goduto molta libertà, specialmente negli ultimi tempi. Perciò si capisce che l'idea di avere un educatore e un insegnante severo non gli vada a genio. Sicché, nel momento in cui doveva essere consegnato al nuovo maestro, ha preso il largo, non tanto forse sperando di sfuggire realmente alla sua sorte, quanto pensando che una dilazione non gli può nuocere. Oltre a ciò, avrà voluto dare uno schiaffo ai suoi genitori e al maestro da loro inviato, ed esprimere la sua ostilità al mondo degli adulti e degli insegnanti. Salirono al piano di sopra, dove era la camera di Tito, e Knecht osservò divertito il disordine delle cose del ragazzo. Prese un libro da un tavolo accanto al letto, vide che ne sporgeva una striscia di carta, ed ecco, era un biglietto con un messaggio del fuggitivo. Porse il foglietto a dei signori con una risata, e anche questi si rischiarò. Tito comunicava ai genitori di essere partito la mattina all'alba per recarsi da solo in montagna a Belpont, dove avrebbe aspettato il nuovo maestro. Gli si concedesse questo piccolo divertimento prima che la sua libertà fosse così molestamente limitata, poiché sentiva un'insuperabile ripugnanza a fare quel bel viaggetto in compagnia del maestro, sotto sorveglianza e ormai in prigionia. Knecht commentò: comprensibilissimo. Lo seguirò domani mattina e lo troverò già alla villa. Adesso però vai prima di tutto da tua moglie e portale la notizia. Nel resto della giornata l'atmosfera della casa fu calma e serena. In serata, per le insistenze di Plinio, Knecht gli raccontò in breve gli avvenimenti degli ultimi giorni, soprattutto i due colloqui col maestro Alexander. Quella sera gli scrisse anche su un foglio una curiosa strofetta che oggi è in possesso di Tito de Signori. La cosa andò così. Prima di cena, il padrone di casa l'aveva lasciato solo per un'oretta. Knecht vide uno scaffale di libri vecchi che attirò la sua curiosità. Scorse con comodo i titoli sui dorsi e stabilì che erano tutte opere letterarie dei secoli XIX e XX. Infine, estrasse un volume rilegato in tela scolorita, il cui titolo, Sapienza del Bramano, gli parve allettante. Lo sfogliò. Conteneva centinaia di poesie didascaliche, un misto curioso di loquacità didattica e di vera sapienza, di pedanteria e di autentico spirito poetico. Mentre con un misto di rispetto e di divertimento cercava di penetrare nella sostanza del libro, colse al volo una strofa che assorbì con soddisfatta approvazione, sorridendole come gli fosse stata inviata apposta per l'occasione. Diceva: «I dolci dì vediamo tramontare con piacere, se a noi fa maturare cose più dolci. Un bimbo che educhiamo, una pianta, un libretto che scriviamo». Aprì il cassetto della scrivania, vi cercò e trovò un foglietto e copiò la strofa. Più tardi la mostrò a Plinio dicendo: «Questi versi mi sono piaciuti. Hanno qualche cosa di particolare, così asciutti e a un tempo così fervidi come sono. E si attagliano bene a me e alle mie condizioni di spirito in questo momento. Anche se non sono un giardiniere e non intendo dedicare le mie giornate alla coltivazione di una pianta rara, sono però educatore e maestro, incamminato verso il mio compito, verso il ragazzo che voglio educare. Come godo a questo pensiero!» Thank you. La mattina seguente, Knecht partì per Bellepunt. De Signori aveva dichiarato di volerlo accompagnare, ma egli aveva rifiutato decisamente e, vedendo che quello arrischiava ancora qualche parola per convincerlo, lo aveva quasi investito. Il ragazzo avrà abbastanza da fare per incontrare il nuovo sgradito maestro e per digerirlo. Non dobbiamo pretendere ancora che sopporti la vista del babbo che in questo momento potrebbe non fargli piacere. La villetta che infine raggiunsero sorgeva in riva a un laghetto alpino, nascosto fra le rocce grigie dalle quali si distingueva a malapena. A quella vista, Knecht sentì il rigore, anzi la tetraggine, di quell'architettura adattata all'asprezza della montagna, ma poco dopo un gaio sorriso lo rischiarò tutto, poiché sulla soglia gli era apparsa la figura d'un giovane in giubba colorata e calzoni corti. Non poteva essere altri che Tito, il suo allievo, e quantunque non fosse stato seriamente in pensiero per il fuggiasco, respirò sollevato e riconoscente. Se Tito era lì e salutava il maestro dalla soglia di casa, tutto andava per il verso buono e parecchie complicazioni sparivano, delle quali durante il viaggio aveva pur dovuto considerare la possibilità. Il ragazzo gli andò incontro sorridente e un po' imbarazzato. Lo aiutò a scendere e disse: «Non è stata cattiveria se le ho fatto fare il viaggio da solo. Penso che lei avrà capito perché ho fatto così, altrimenti avrebbe portato anche mio padre. Gli ho già comunicato che sono arrivato sano e salvo». Knecht gli strinse la mano ridendo e si fece condurre in casa, dove anche la domestica lo salutò e assicurò che la cena era presto pronta. Quando, cedendo a un'insolita necessità, si coricò per riposare un poco prima di andare a tavola, si rese conto che era piuttosto stanco del bel viaggio in vettura, anzi sfinito, e mentre passava la sera a discorrere col suo alunno e a farsi mostrare le collezioni di fiori alpini e di farfalle, quella stanchezza aumentò ancora fino a fargli provare come una vertigine, come un vuoto nella testa, una sgradevole debolezza e irregolarità del cuore. Rimase però con il ragazzo fino all'ora stabilita per andare a letto e si sforzò di non far trapelare quel suo malessere. Quando si augurarono la buonanotte, Tito era molto contento e formulava buoni proponimenti. Ancora una volta quel magister Knecht gli era piaciuto. Senza usare gran paroloni e discorrere di scienza, virtù, nobiltà dello spirito e cose simili, come facevano i suoi professori, quell'uomo sereno e gentile aveva nel carattere e nella parola qualcosa che obbligava e faceva appello alle forze nobili e cavalleresche e alle superiori aspirazioni. Poteva essere divertente e persino meritorio ingannare e beffare un qualunque maestro di scuola, ma tali voglie non potevano venire di fronte a quell'uomo. Egli era... Già, che cos'era? E come era? Tito rifletté che cosa mai gli piacesse tanto in quel forestiero e gli ispirasse tanto rispetto, e trovò che doveva essere il suo animo nobile e la sua signorilità. Questa soprattutto lo attraeva. Quel Knecht era nobile, era un signore, un gentiluomo, benché nessuno conoscesse la sua famiglia e suo padre potesse aver fatto il calzolaio. Nel cuore del giovane, superbo e focoso, sorse l'idea che appartenere a questa specie di nobiltà e servirla avrebbe potuto diventare per lui un obbligo e un onore, e che forse, impersonato in quel maestro, il quale, nonostante la mansuetudine e la gentilezza, era un signore da capo a piedi, ora gli veniva incontro il senso, la meta della sua vita. Thank you.